Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi che siete in ascolto. Anche in questo lunedì continueremo il nostro approfondimento sul Vangelo di Marco. Siamo arrivati insieme al capitolo 14 e, come in ogni puntata, ricordo un po' gli obiettivi che ci vogliamo dare attraverso questa nostra trasmissione, questo nostro appuntamento. Il primo obiettivo è quello di far sì che la parola di Dio possa incontrare la nostra vita e quindi non illumini solo la nostra intelligenza, la nostra mente, ma possa in qualche modo offrire qualche luce al nostro cammino. Secondo obiettivo è quello di scavare dietro il significato del testo, dietro il significato della narrazione, per notare come nella strategia narrativa dell'evangelista Marco ci sia ogni volta un messaggio significativo che l'evangelista voleva lasciare non solo alla sua comunità, ma anche ai lettori di ogni tempo, tra i quali ci siamo appunto noi. Terzo obiettivo è quello di scavare dietro il significato delle parole. Voi sapete che un testo antico, come il testo greco o il testo ebraico, è spesso suscettibile di diverse interpretazioni, di diverse traduzioni, e a volte una sfumatura resa da una traduzione piuttosto che da un'altra permette di cogliere aspetti inediti del testo e quindi permette di cogliere delle sfumature che altrimenti andrebbero perse. Chiedo, come sempre all'inizio di ogni puntata, di il sostegno vostro e della vostra preghiera, in modo che quanto ci diciamo possa essere fecondo, possa portare frutto. In questa puntata chiedo soprattutto il sostegno nella preghiera a coloro che stanno soffrendo per alcune fratture relazionali. Noi sappiamo quanto la relazione, quanto il bene tra le persone è in grado di sostenere la vita e quanto a volte le relazioni che si rompono, le relazioni che si spezzano, siano causa di tanto dolore e a volte anche di tanti interrogativi. Allora chiedo a quanti vivono l'esperienza di questo dolore di offrire in quest'ora e mezzo i loro interrogativi, la loro sofferenza, perché la parola di Dio possa portare più frutto e allo Spirito Santo il compito di guidarci. Sapete, cari ascoltatori, anche che questa nostra puntata si regge sempre su due pilastri. Il primo è quello del commento che io faccio nei primi tre quarti d'ora e il secondo è quello delle domande che voi fate. Le vostre domande sono tanto preziose quanto il commento che faccio io, in quanto diventano l'occasione per approfondire aspetti che altrimenti rimarrebbero nascosti. Ringrazio anche quanti di voi lungo il mese mi scrivono per continuare il dialogo sulla parola di Dio. Anche questo è uno stimolo a continuare ad approfondire quanto ci comunichiamo e quanto condividiamo in questa trasmissione. E andiamo ora sul testo stesso. Quindi invito coloro che ne hanno la possibilità, quindi coloro che sono a casa, a prendere un'edizione della Bibbia dei Vangeli e ad aprirla al capitolo 13 del Vangelo di Marco. Questa sera continueremo la nostra riflessione su quello che è chiamato il discorso escatologico di Gesù o il discorso apocalittico di Gesù, vale a dire il discorso che Gesù tiene alle porte della passione e che riguarda gli ultimi tempi, la fine della storia e la fine del mondo. È un discorso che Gesù tiene tenendo presenti due, possiamo dire, codici narrativi, due chiavi di lettura. La prima chiave di lettura è quella del suo destino. Gesù sa bene che la sua vita volge al termine. E la seconda chiave di lettura invece è il destino della storia che lo circonda, soprattutto il destino di Gerusalemme e del popolo eletto. Quindi dobbiamo accedere a questo discorso che presenta dei lati misteriosi con queste due chiavi di lettura, altrimenti il discorso di Gesù ci resta praticamente oscuro, rischia di restare praticamente oscuro. Il brano che affronteremo insieme questa sera si può suddividere in tre parti. nella prima parte Gesù tratta il tema dell'abominio della desolazione e vediamo cosa Gesù intende con questo termine. Nella seconda parte, la parte centrale, presenta il grande segno di speranza che butta fuori scena il segno negativo dell'abominio della desolazione, e il segno di speranza è quello del figlio dell'uomo e degli eletti, e vedremo chi rappresentano gli eletti di cui il Vangelo parla. L'ultima parte del discorso, la terza parte del discorso, è rappresentata da due parabole che si rivolgono al lettore, due parabole incentrate sul tema della vigilanza. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di vedere queste tre parti della narrazione. Cominciamo subito con la prima. La prima, vi dicevo, presenta questo grande segno negativo che è il segno dell'abominio della desolazione. Leggiamo il testo. Vi dicevo, siamo al capitolo 13, i versetti che leggiamo insieme vanno dal 14 al 23. Marco scrive così: in quel tempo il Signore disse: quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non deve, chi legge faccia bene attenzione, allora quelli che vivono in Giudea fuggano sui monti. Chi è sulla terrazza non scenda, né entri in casa sua a prendere qualcosa. Chi si trovi nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. Guai alle donne che in quei giorni saranno incinte e a quelle che allattano. Pregate perché ciò non accada d'inverno. Infatti saranno giorni di una tribolazione tale che non vi è mai stata dall'inizio della creazione di Dio fino ad ora, e mai ci sarà. Se il Signore non avesse accorciato quei giorni, nessuno potrebbe essere salvato, ma a motivo degli eletti che si è scelto, egli ha accorciato quei giorni. Se qualcuno dunque vi dirà: eccolo qui il Messia, eccolo là, non credetegli. Infatti sorgeranno falsi messie e falsi profeti che faranno segni e prodigi al fine di ingannare, se possibile, perfino gli eletti. Ma voi badate bene, io vi ho preannunziato tutte queste cose. Ecco, questo è la prima parte della narrazione che è oggetto della nostra riflessione. Notiamo subito che se la volta scorsa, un mese fa, quando abbiamo commentato la prima parte del discorso, tutto il codice narrativo di Marco era incentrato sul tema dell'ascolto, cioè quando sentirete parlare di guerre, quando sentirete parlare di terremoti, tenete presente che non è ancora la fine, ora invece dall'ascolto si passa alla visione, allo sguardo, cioè Gesù dice: non si tratta solo di sentire delle cose, vedrete anche delle cose. E i verbi che lui utilizza per dire il vedere sono tutti dei verbi che indicano il discernimento, cioè invitano colui che vede le cose succedere attorno a sé a discernere bene, cioè a fare una distinzione tra ciò che vede e ciò che sta dietro quello che sta succedendo. Quindi Gesù invita a fare attenzione a quello che sta dietro i fatti. I fatti sono guidati da un regista altro che è Dio, e quindi ogni fatto ha bisogno di essere decodificato in un'ottica di fede. Quindi Gesù dice: quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non deve, allora cercate di discernere bene quello che sta succedendo nella storia. Gli studiosi hanno cercato di capire cosa intende Gesù quando fa riferimento all'abominio della desolazione, cosa significa questa espressione che per noi oggi suona strana, cosa significa abominio della desolazione. E gli studiosi dicono che probabilmente Gesù fa riferimento a due episodi. Il primo episodio è quello legato al periodo della distruzione di Gerusalemme, quindi l'epoca è quella dei Babilonesi, VI secolo avanti Cristo, quando Gerusalemme venne distrutta e con essa il Tempio e con essa anche la monarchia e tutto il popolo venne portato in esilio, quindi la desolazione antica. Altri invece dicono che l'episodio a cui Gesù fa riferimento è un episodio più vicino agli ascoltatori e sarebbe quello del 168 a.C. circa, quando Antioco IV Epifane fece erigere una statua che lo rappresentava all'interno del Tempio. Tra l'altro questo episodio avrebbe a che fare con qualcosa che un imperatore più vicino al momento in cui Marco scrive, vale a dire l'imperatore Caligola, tentò di fare una cosa simile. Caligola tentò attorno agli anni 39-41, gli anni in cui lui dominava l'impero romano, cercò di fare la stessa cosa, cioè di far portare una sua grande statua al centro del Tempio di Gerusalemme. E allora l'abominio della desolazione sarebbe lì la distruzione del luogo sacro con l'elemento pagano. Ciò che è abominevole non è tanto l'introduzione di una statua nell'area del Tempio, ma ciò che questa statua rappresentava, cioè il voler mischiare, mescolare l'elemento sacro con l'elemento profano. Il vero abominio che rischia di distruggere il popolo è questa sorta di confusione, dove non viene rispettato il mistero di Dio e il mistero di Dio viene confuso con tutta una serie di elementi che di divino non hanno nulla. Ecco allora che di fronte a una cosa del genere tutti devono essere, vigilare, fare attenzione e cercare rifugio. L'invito di Gesù è molto drastico, cioè il momento in cui l'uomo non rispetta più il mistero di Dio, il mistero del sacro, è il momento che apre la storia alla sua fine, apre la storia al dramma, perché nel momento in cui uno non rispetta il mistero di Dio, finisce per non rispettare nemmeno il mistero dell'uomo e la sua dignità, e quindi l'uomo finisce per uccidere, oltraggiare il suo simile, perché ha perso il significato della sua identità. Ecco perché di fronte a questo Gesù invita alla fuga, al non tornare indietro, utilizzando delle immagini che sono molto dure. Anche qui queste immagini gli esegeti, gli esperti del testo sacro hanno sempre cercato di decodificarle con eventi storici precisi lungo i secoli, ad esempio questa fuga sui monti alcuni l'hanno vista come una delle fughe che hanno caratterizzato la prima guerra giudaica tra il 66 e il 70 d.C. Sapete che in quell'epoca i giudei pi cercarono di fuggire da Gerusalemme rifugiandosi nella fortezza di Masada, dove poi verranno tutti ammazzati. Ecco, è un episodio che può aver fatto da sfondo alla narrazione di Marco, ma non è possibile identificare quello che Gesù dice qui con tutta una serie di episodi storici. Il linguaggio di Gesù ha un codice simbolico che attinge ad un modo di spiegare le cose ben preciso, che è quello di questa corrente nota come corrente apocalittica. Quello che invece merita di essere trattenuto, di essere custodito dal lettore, è l'insegnamento di fondo, cioè quando l'uomo perde il significato del mistero di Dio, la storia è a rischio, la storia dell'uomo è a rischio, per cui bisogna prendere coscienza della gravità di quello che può succedere e che è descritto da tutta una serie di immagini. Ora, l'immagine dell'abominio della desolazione non è la prima immagine con la quale Gesù mette in guardia i suoi. Fin dal capitolo 11 Gesù sta utilizzando una serie di immagini che fanno capire che il Tempio, cioè l'area sacra di Gerusalemme, è esposta al rischio di confondere il mistero di Dio con ciò che è profano. Tanto vero che lungo il racconto si erano già verificati dei fatti che erano stati come dei campanelli d'allarme. Ricordate, prima che Gesù entrasse nel Tempio, nella sua prima visita, Gesù aveva maledetto un fico, quella pianta di fico che attirava lo sguardo per il rigoglio delle sue foglie, che però non aveva nessun frutto, viene da lui maledetta e il giorno dopo i discepoli la trovano seccata. E avevamo detto a suo tempo che quella pianta di fico è un simbolo del Tempio di Gerusalemme, che attira gli sguardi di stupore all'esterno, ma che oramai non dà più niente alle persone che salgono al Tempio, perché si è tutto tradotto in una ritualità spenta, in una ritualità esterna. E allora la ritualità esterna non cambia la vita, ma produce solo sterilità. Un altro segno che Gesù aveva compiuto, sempre nei giorni precedenti a questo discorso, è stata la cacciata dei venditori dal Tempio. Anche qua l'area sacra che diventa uno spazio di commercio, definita addirittura da Gesù una spelonca di ladri. È un altro modo in cui la sacralità, quindi il mistero di Dio, viene invasa da ciò che è profano. Più avanti, al capitolo 12, Gesù aveva utilizzato un'altra immagine, che era quella della vigna e dei vignaioli omicidi. Anche lì la vigna rappresenta certamente il popolo, ma i vignaioli sono coloro che guidano il popolo, soprattutto le autorità religiose, tacciate da Gesù di avere una grave responsabilità, quella di non seguire più il popolo, ma i loro interessi. Ancora una volta un ministero che ha a che fare con la sacralità di Dio viene totalmente, frainteso, vissuto male per seguire i propri interessi. E un ulteriore segno di allerta erano state l'accusa di Gesù di fronte ad alcuni abusi perpetrati dalle autorità religiose. Quindi, quando Gesù arriva all'immagine forte per eccellenza, che è quella dell'abominio della desolazione, si arriva alle conseguenze di tutto quello che Gesù aveva già annunciato. Quindi l'invito al lettore, quello che noi possiamo custodire di questa prima parte, che cos'è? È di fare attenzione. Se noi non rispettiamo il mistero di Dio, alla fine finiamo per non rispettare il mistero dell'uomo. E siamo tutti coscienti di quello che è successo in molte pagine della storia, anche della storia recente, quando l'uomo ha voluto fare da solo, quando l'uomo si è scanciato da Dio. Perdere Dio significa perdere le radici della dignità e dell'identità umana e quindi oltraggiare non solo se stessi, ma anche l'uomo, ma anche il proprio simile. Lasciamo un breve spazio di riflessione attraverso un approfondimento musicale, uno stacco musicale, prima di continuare la nostra riflessione e vedere come l'Evangelista Marco non si ferma però solo al segno negativo, cioè Gesù non si limita a parlare dell'abominio della desolazione, ma va in là e accanto a questo segno negativo che sembra aver così tanto peso sulla storia, sembra essere come una nuvola nera che si stende sulla buona novella di Gesù, alla fine venga contrastato da un altro segno positivo, che è quello degli eletti e del figlio dell'uomo. Ma lasciamo un breve stacco musicale prima di riprendere la nostra lettura e la nostra riflessione. Quindi la prima parte di questa narrazione che abbiamo ascoltato puntava su questo segno negativo, quello dell'ombra oscura dell'abominio della desolazione, un'ombra oscura che sarebbe durata molti giorni e Gesù già diceva se il Signore non avesse accorciato quei giorni nessuno potrebbe essere salvato, ma a motivo degli eletti che si è scelto egli ha accorciato quei giorni. Notate già nella prima parte della narrazione il segno positivo che diventa quasi da contrasto all'elemento del male viene evidenziato ed è questo grande segno di speranza rappresentato dagli eletti. Ecco, questo ci permette un approfondimento. In tutte le pagine della storia della salvezza, anche nelle pagine più oscure dell'Antico Testamento, Dio non lascia mancare un segno di speranza. Se nelle pagine dell'Antico Testamento questo segno di speranza è rappresentato dal resto o dal piccolo resto, così come viene definito dalle diverse pagine dei profeti, così nelle pagine del Nuovo, in queste pagine legate all'Apocalisse, ai discorsi apocalittici, l'immagine di speranza è data dagli eletti. E gli eletti hanno come caratteristica quella della preghiera. Sono persone che sembrano stare ai margini della storia, ma che con la loro preghiera riescono a incidere su di essa, al punto tale da far accorciare queste pagine oscure. Ma sentiamo come continua il racconto, potenziando questo elemento, questo segno di speranza, unendo a sé il figlio dell'uomo e gli eletti. Allora, leggiamo la continuazione del racconto marciano dai versetti 24 a 27. In quei giorni, dopo quella grande tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri saranno in procinto di cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Allora egli invierà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo. Allora, questo grande segno di speranza che ostacola il segno negativo della desolazione è rappresentato dall'arrivo del figlio dell'uomo. L'arrivo del figlio dell'uomo è una venuta che si verifica nel momento del massimo disordine. L'Evangelista Marco precisa molto bene: il sole si oscura, la luna non dà più il suo splendore. È un'immagine ovviamente simbolica, sole e luna sono i due elementi che mettono ordine nel ritmo della vita quotidiana. Il sole stabilisce le ore del giorno, quindi le ore lavorative, le ore dell'attività, la luna le ore della notte, quindi le ore del riposo. Gli astri saranno in procinto di cadere, gli astri erano gli elementi dell'ordine per il ciclo della natura, era attraverso gli astri, attraverso le posizioni anche dello zodiaco che si riteneva ci fossero degli influssi, no? sulla vita dell'uomo in base ai diversi mesi dell'anno. E poi aggiunge: le potenze dei cieli saranno sconvolte. Le potenze dei cieli sono entità a volte personificate nella tradizione biblica che hanno potere di incidere sulla vita degli uomini e che fanno parte di tutto ciò che costella il mistero di Dio. Ci sono gli angeli, gli arcangeli, insieme agli angeli e agli arcangeli ci sono le potenze, i troni, le dominazioni, che sono tutta una serie di realtà che fanno parte del mistero di Dio e che incidono sulla storia. Bene. Tutte queste realtà vengono nel momento oscuro della storia, vengono frantumate, non riescono più a regolare il giorno, a regolare la vita degli uomini. Nel momento in cui c'è questa grande confusione, ecco che appare il figlio dell'uomo. La visione del figlio dell'uomo non è l'unica volta che viene anche qui menzionata nel Vangelo di Marco, ci sono altri passaggi in cui il figlio dell'uomo viene menzionato, gli esperti dicono che Marco attinge questa immagine dal profeta Daniele con una differenza. Nel profeta Daniele gli uomini vedono il figlio dell'uomo che sta sulle nubi del cielo, Nel Vangelo di Marco il figlio dell'uomo invece scende. Quindi la caratteristica del mistero di Dio nelle pagine del Nuovo Testamento è proprio quello di rivelare un Dio che si china sull'uomo, che non aspetta che l'uomo vada da lui, ma che fa questo atto, l'atto della discesa, l'atto della chinosi. E il primo gesto che compie il figlio dell'uomo qual è? Quello di radunare attorno a sé gli eletti da tutti i quattro angoli della terra. Perché il figlio dell'uomo raduna gli eletti? Per salvarli. No, non è solo per salvarli, certo, è per averli vicino a sé, ma per incidere insieme con loro sulla storia e sconfiggere le tenebre che caratterizzano questa pagina oscura della storia. In altre parole, Gesù sta dicendo, teniamo presente che Gesù in questo discorso si sta rivolgendo ai suoi discepoli. Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che nonostante gli smarrimenti, nonostante l'oscurità che può avvolgere la storia, non devono temere, devono rimanere legati a lui, e nella misura in cui rimarranno legati a lui, loro sono quegli eletti che con la loro preghiera riusciranno non solo a sconfiggere le pagine buie della storia, ma anche a riportare l'ordine in essa. Pensate che molti studiosi hanno ritenuto che la pagina che noi stiamo commentando, questa pagina di Marco, fosse una sorta di anticreazione, cioè una parodia del quarto giorno della creazione, il giorno centrale tra i sette, dove appunto veniva creato il sole, la luna, le stelle, cioè tutto ciò che caratterizzava il firmamento del cielo e quindi che regolava, dava ordine alla vita degli uomini. Allora gli studiosi dicevano: qui Gesù sta dipingendo come elemento oscuro un'anticreazione. Bene, gli eletti insieme al figlio dell'uomo che restano uniti a lui, si lasciano radunare da lui, questi eletti che si lasciano radunare da lui non sono altro che coloro che sono in grado di far nascere una nuova creazione ogni giorno. Ora, capite bene anche che l'immagine del Cristo che raduna gli eletti è un'immagine che richiama la comunità, cioè una comunità ecclesiale che sa essere unita al suo maestro, al suo signore, è una comunità che sa incidere sulla storia in modo positivo. E a mio avviso questa è anche un'immagine stupenda per le nostre comunità cristiane. Se le nostre comunità cristiane si lasciano radunare dal proprio maestro e si lasciano formare dalla sua parola, immergere nel suo mistero attraverso i sacramenti, sono veramente quelle comunità che sanno incidere sulla storia, abbattendo tutti quei segni negativi che potrebbero così spaventare la storia. In un contesto quindi di tenebre emerge questo segno luminoso, questa città posta sul monte, questa luce posta sul candelabro che è rappresentata dai 12, che è rappresentata dalle prime comunità cristiane. Ora, tornando sull'immagine del figlio dell'uomo, dicevo che nel Vangelo di Marco il figlio dell'uomo è un'immagine che ricorre più volte. Al capitolo 2 già della narrazione, quando Gesù compiva i suoi primi miracoli nel contesto di Cafarnao, aveva sottolineato che una delle caratteristiche del figlio dell'uomo è quella di rimettere i peccati. E che cos'è la remissione dei peccati se non, ancora una volta, la capacità di portare luce là dove c'è tenebre? In un cuore abitato dal disordine, il figlio dell'uomo sa portare ordine, sa stabilire la logica della nuova creazione. Al capitolo sempre 2, al versetto 28, in una polemica con le autorità religiose, Gesù aveva ribadito che il figlio dell'uomo non solo rimette i peccati, ma è anche signore del sabato. Provate a riflettere. Che cos'è il sabato, nella tradizione ovviamente biblica, se non il giorno che permette alla nuova creazione di ristabilirsi? Il sabato è il momento del riposo nella tradizione biblica. E il riposo non è altro che il momento del distacco dell'uomo dal suo lavoro, dalla sua attività, per ricordarsi che il Signore della storia è un altro, è Dio. E quindi far due passi indietro dalla storia permette a Dio di fare due passi in avanti nella storia e quindi di continuare quel processo di creazione, di nuova creazione, compiuto fin dalle origini del mondo. Quindi l'uomo fa due passi indietro attraverso l'esperienza del sabato perché Dio possa continuare ad essere il sovrano che mette ordine nella storia. Quindi vedete, i punti, gli aspetti sono sempre gli stessi. Il tema del figlio dell'uomo poi era tornato una terza volta negli annunci del mistero pasquale, quando Gesù annunciava che lo aspettava la passione, la morte e la risurrezione. Lì si era sempre identificato col figlio dell'uomo. Ancora una volta, che cos'è la passione, la morte e la risurrezione di Gesù se non l'atto salvifico che permette di passare dall'antica creazione alla nuova, dall'antica alleanza alla nuova, da una situazione di peccato a una situazione di grazia, attraverso ovviamente il dono della sua vita. Notate, il messaggio che ogni volta viene dato attraverso l'immagine del figlio dell'uomo è un messaggio di speranza che trasfigura la storia. Ora, a questo messaggio di speranza che caratterizza l'immagine del figlio dell'uomo vengono ora associati gli eletti. Come vi dicevo, gli eletti rappresentano i 12, ma rappresentano anche tutti coloro che lungo il tempo si uniscono attraverso il battesimo alla comunità cristiana, quindi rappresenta tutti noi. Il messaggio quindi che viene da questa pagina, nota come pagina apocalittica, e che sovente noi leggiamo come una pagina segnata dall'oscurità, perché non si riesce mai a decodificare bene questi segni, non è quello di essere una pagina oscura, ma al contrario, è una pagina carica di luminosità, dove l'umiltà di coloro che seguono il Cristo diventa la forza di coloro che sanno incidere nella storia, portando all'interno di questa storia una irruzione di luce. Facciamo un altro stacco musicale in modo da interiorizzare questo messaggio, prima di concludere con le due parabole. Noteremo come le due parabole conclusive del discorso che Marco utilizza si rivolgono direttamente all'ascoltatore e alla comunità e diventano un invito alla vigilanza. In altre parole, tutto parte con queste descrizioni, se vogliamo, oscure della storia, per poi invece arrivare alla concretezza della vita quotidiana nostra, dove Gesù non solo ci dice vegliate, ma ci richiama alla responsabilità. Noi abbiamo una grande responsabilità, quella di essere i portatori di luce nella storia che viviamo ogni giorno. E continuiamo con la nostra riflessione. Allora, dicevo che il nostro discorso quindi si suddivide in tre parti. Dopo l'immagine oscura dell'abominio della desolazione e dopo l'immagine luminosa del figlio dell'uomo, il racconto continua con le due parabole che invitano alla vigilanza. Allora, ascoltiamo i versetti che vanno dal 28 al 34 e che fanno da conclusione all'intero discorso apocalittico di Gesù. Dal fico imparate la parabola. Quando il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole invece non passeranno. Riguardo però a quel giorno e a quell'ora, nessuno ne sa nulla, nemmeno gli angeli nel cielo e nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. Fate attenzione, vigilate. Non sapete infatti quando è il momento. Come un uomo che partendo per un viaggio lascia la sua casa e dà ai suoi servi l'autorità, a ciascuno il proprio compito e al portiere il comando di vigilare. Vegliate dunque, non sapete infatti quando il padrone di casa tornerà, se la sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Ecco, il discorso di Gesù in questo capitolo 13 termina con questo ripetuto invito alla vigilanza. Le parabole che vengono utilizzate sono due. La prima parabola torna sull'immagine del fico, la seconda parabola torna sull'immagine della casa e di coloro che la custodiscono. Cominciamo dalla prima parabola. Prima parabola, Gesù prende l'immagine del fico che abbiamo già visto, era l'icona, il simbolo del Tempio di Gerusalemme, e invita a fare attenzione al suo ramo. Quando il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicino. Allora, Gesù invita a decodificare gli elementi che possono incidere nella storia, e nel paragone che lui fa sembrano esserci delle contraddizioni, perché da un lato dice che se noi vediamo il ramo che si fa tenero capiamo che l'estate è vicina, però poi dice che le cose, che quell'ora e quel tempo nessuno saprà quando avverrà, nemmeno il figlio, lo conosce solo il padre. Da un lato dice che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute, e poi dice che lui stesso non sa quando tutto questo avverrà. Da un lato dice che egli è vicino e alle porte, ma dall'altra invita i suoi a non credere se qualcuno dice che il figlio dell'uomo è qui, che il Messia è qui. Insomma, sembra esserci una contraddizione nelle parole di Gesù, al punto tale che il lettore può domandarsi, ma la fine della storia è vicina o è lontana? La fine della storia si può capire o non si può capire? Quali sono i criteri per rispondere alla domanda del quando avverranno queste cose, che era la domanda di partenza dei discepoli. Allora, per decodificare il discorso di Gesù è importante avere le due chiavi di accesso di cui avevo parlato all'inizio. La prima chiave è la chiave che riguarda il destino di Gesù. Gesù, praticamente pensando alla propria vita, al proprio destino, dice che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute, cioè lui ritiene alle porte la fine della sua vita, la fine della sua storia, e la fine della sua storia è diventerà uno spartiacque per la storia dei discepoli e per la storia del mondo intero, per cui questa prima chiave di accesso fa capire in che senso lui sta sottolineando la vicinanza e la partecipazione della generazione a lui presente, no? a tutte queste cose. Dall'altro però rimanda anche alla fine dei tempi, e la fine dei tempi resta avvolta nel mistero. Quello che è importante in quel caso non è capire il quando avverrà la fine dei tempi, ma il restare uniti a lui, che è l'incarnazione del figlio dell'uomo. Quindi quando il ramo di fico diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicina, l'estate è il tempo della mietitura, il tempo in cui si raccolgono i frutti, così i discepoli devono capire che il suo avvicinarsi a Gerusalemme e al Tempio, di cui il fico è il simbolo, è il segno che oramai il tempo della mietitura, della raccolta, dell'insegnamento di Gesù è finito, è ormai sta per compiersi. E la mietitura sarà caratterizzata dal mistero pasquale, cioè da questo Cristo, da questo Messia che, fattosi uomo, dona la vita fino al dono totale di sé. Quindi la prima parabola porta a fissare lo sguardo sul Monte Calvario, fissare lo sguardo sul luogo del dono. I discepoli, prima di tutto, per essere segni luminosi nella storia, devono fissare lo sguardo sul dono di Cristo, che è che rappresenta in miniatura il tempo del compimento. Poi c'è l'altro invito, l'altra parabola, la parabola della vigilanza, nella quale Gesù fa riferimento a quell'uomo che, partendo per un viaggio, notate ancora l'immagine di colui che lascia i suoi, quindi di nuovo il mistero pasquale sullo sfondo, un uomo che partendo per un viaggio lascia la sua casa e dà ai suoi servi l'autorità, ciascuno il proprio compito, e al portiere il comando di vegliare. Cioè, nella casa di Dio, nella comunità cristiana, ci sono diversi compiti, ognuno ha il suo, però c'è uno che ha un compito più delicato degli altri, ed è colui che ha le chiavi della porta. Noi sappiamo che nella tradizione cristiana il ministero delle chiavi è stato affidato a Cefa, a Pietro. Ovviamente qui viene sottolineato la responsabilità dei pastori. Se le autorità religiose al Tempio sono venute meno alla loro responsabilità, diventando la causa del caos che ha portato all'abominio della desolazione, nella comunità cristiana viene richiamata questa figura del portiere, di colui che custodisce la porta e che deve garantire invece questa responsabilità che le autorità giudaiche hanno lasciato perdere. E poi notate la tempistica che viene data. Gesù dice: vegliate dunque, non sapete quando il padrone di casa tornerà, cioè quando il figlio dell'uomo tornerà alla fine della storia. E dice: se la sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba. Questi quattro momenti, che sono praticamente le quattro veglie in cui era divisa la notte nel primo secolo, sapete, il giorno e la notte erano tutte e due divise in quattro veglie di 3 ore ciascuna, 4 veglie la notte e 4 turni il giorno. Quindi la notte aveva 12 ore, era considerata in uno spazio di 12 ore, di 3 ore ciascuna. C'era la prima veglia che andava dalle 18 alle 21, la seconda veglia dalle 21 alle 24, la terza da mezzanotte alle 3, la quarta dalle 3 alle 6. Erano le quattro veglie notturne in cui era suddiviso il tempo della notte. Ora, il momento del ritorno del figlio dell'uomo può avvenire sempre nel momento dell'oscurità, quindi nel momento della stanchezza, e può avvenire la sera, quindi nella prima veglia, mezzanotte nella seconda veglia, tanto del gallo è sempre anticipato alla terza veglia, cioè alle 3 del mattino, o all'alba, l'alba erano le 6 del mattino. In ognuno di questi momenti succederà qualcosa nel gruppo dei 12. Nella prossimità della passione, alla sera si svolgerà l'ultima cena, a mezzanotte si svolgerà la preghiera di Gesù nell'orto del Getsemane, al canto del gallo ci sarà il rinnegamento di Pietro, all'alba ci sarà la condanna a morte di Gesù. In ognuno di questi momenti, che possono essere momenti in cui l'ombra dell'abominio della desolazione sembra invadere la storia, quindi l'ombra oscura sembra invadere la storia, Gesù invita i suoi a deviare, cioè a non mollare la presa, nonostante quello che sta succedendo. Nel momento del canto del gallo, ad esempio, proprio il portiere, Pietro, viene a essere messo in causa, viene a essere messo sotto torchio dal famoso rinnegamento. Ora Gesù invita fin d'ora a non mollare la presa, a vegliare. L'alba è il momento in cui Gesù viene condannato a morte e tutti i discepoli sembrano starsene in disparte. Nel Vangelo di Marco, ricordiamolo, non c'è nessun discepolo presente durante la passione di Gesù, tutti si danno alla fuga. Ebbene, anche lì sono richiamati a vegliare. Mezzanotte è il momento dell'arresto di Gesù, della fuga generale dei suoi, e così via. Quindi Gesù invita i suoi a vegliare in ogni istante. È, in altre parole, questa doppia parabola un invito, come vi dicevo, alla responsabilità. Se vogliamo tirare le fila di tutto il discorso che abbiamo cercato di affrontare, tenendo, custodendo quella che è il messaggio di fondo di questo discorso, il messaggio che possiamo custodire è proprio quello della responsabilità della comunità e del singolo. Ognuno di noi, rimanendo legato al Cristo, è una persona che può e deve portare luce nel mondo. È l'elemento dell'ordine che allontana il disordine portato dall'abominio della desolazione. La storia non fa paura alla comunità cristiana. L'importante è che questa comunità resti unita al suo Maestro. Quindi la comunità cristiana si configura fin dall'inizio non come una setta rivoluzionaria nei confronti dell'impero, né come una setta che vuole abbattere il sistema antico. Assolutamente no. È un lievito nuovo, una luce nuova che, rispettando l'alterità che gli sta di fronte, la legge sotto una nuova luce e riesce a creare, a impostare, se vogliamo, una nuova creazione a partire dagli elementi che ha attorno a sé. Nulla viene buttato, quindi, ma tutto viene rinnovato grazie a quel germe di speranza che il Cristo è venuto a portare nella storia. Penso quindi che questo discorso apocalittico, più che essere un discorso che genera paura, genera ansia per tutte le immagini provocatorie che porta dentro di sé, è piuttosto un discorso che genera una grande speranza, oltre a provocare a un forte senso di responsabilità, che è ben sintetizzato dalle parole che concludono questo discorso. Vegliate. Ognuno di noi nella sua sequela può vivere dei momenti difficili, o alla sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo, o all'alba, ogni evento associa qualche cosa nella vita dei discepoli, ognuno di noi può vivere un aspetto di questa vita dei discepoli, eppure in ognuno di questi eventi il Signore ci invita non solo a resistere, ma a vivere quella vigilanza che ci fa essere segni luminosi nella storia. Ecco, cari ascoltatori, ora lasciamo lo stacco musicale che in genere separa la mia riflessione dalle vostre domande. Vi invito fin d'ora a pensare a qualche domanda attinente al tema, in modo che insieme, grazie anche al vostro contributo, possiamo continuare la nostra meditazione e quindi arricchirci vicendevolmente. Quindi resto nell'attesa mentre ascoltiamo lo stacco musicale. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Mi chiamo Maria Grazia e chiamo da Varese. Mi dica. Volevo chiederle se non le sembra che questa descrizione si riferisca piuttosto che ai secoli precedenti, a questo, ecco, a questo nostro secolo, a questo nostro momento storico. Volevo chiederle questo. Ascolto per radio, grazie. Grazie Maria, grazie per questa sua domanda. Allora, la parola di Dio ha sempre una grande attualità, l'abbiamo ascoltato anche nella liturgia di domenica, di ieri, quando ci veniva detto appunto che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio, no? Che penetra sempre negli spazi più intimi dell'uomo. E proprio perché penetra negli spazi più intimi dell'uomo, è una parola che ha sempre la sua validità, ha una sua attualità che a volte ci lascia senza parole. Io sono convinto che questa pagina di Marco, che spesso ecco viene illustrata come una pagina lontana dalla nostra sensibilità, abbia molto a che fare con l'attualità. Noi viviamo in un contesto che è segnato da una enorme confusione, no? In un contesto dove il sacro e il profano sono mescolati e dove la desolazione rischia effettivamente di irrompere nella storia. Pensate, in questi giorni, fino nell'ultima settimana, sono stato a Francoforte per la Fiera Internazionale del Libro. È un grande appuntamento per tutte le realtà editoriali del mondo, questa Fiera del Libro è una città dominata dalle pubblicazioni, piena di libri, una città enorme. E girando nello stand dedicato alla religione, nel padiglione numero 8, per chi conosce la Fiera di Francoforte, in questo grande padiglione c'è proprio un'area religione. Ecco, sono rimasto sconcertato nel vedere cosa è incluso sotto questo termine. Di religioso in senso proprio non c'è nulla, o quasi nulla, ma sotto religione c'è magia, c'è esoterismo, ci sono le sette più strane, c'è Scientology, e di cristiano c'è poco, poco, poco, poco. E allora si resta sconcertati perché si coglie quanta confusione c'è. E quello che in grande si vede nella Fiera del Libro di Francoforte, basta entrare in una libreria cosiddetta laica per vedere in miniatura tutto questo. Sotto spiritualità, sotto religione, sotto queste diciture a volte si trova di tutto, cioè l'uomo rischia di perdere la bussola del suo Dio. E quando noi perdiamo la bussola di Dio, perdiamo la bussola per capire noi stessi, per capire il significato della nostra vita. E allora si perde anche il senso della dignità dell'altro. Ecco, la confusione che può regnare su alcuni temi molto delicati è il dibattito che può caratterizzare il dibattito contemporaneo è segno dell'attualità di questa parola, ma è ancora più attuale l'invito di Gesù. Gesù invitava i suoi discepoli ad essere tra quegli eletti che portano luce nella storia, Gesù invita noi cristiani, le nostre comunità, a non aver paura e ad essere è questo segno luminoso. Ecco perché un cristiano non può sottrarsi dall'impegno politico, dall'impegno sociale, dall'impegno religioso, perché fa parte della nostra identità essere dei segni luminosi nella storia. Quindi rinnovo la mia riconoscenza a Maria Grazia per questa sua domanda, perché ci ha permesso proprio di vedere come l'invito di Gesù in questo capitolo 13 di Marco abbia tutta la sua attualità anche per noi. Grazie di cuore. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, mi chiamo Anna Grazia, sono di Roma. Innanzitutto la ringrazio per la sua catechesi che è stata molto, è stata bellissima. E poi devo porgere una domanda. E dunque, rivolto all'Apocalisse, è scritto in un altro punto del Vangelo, adesso non mi ricordo dove, quando due saranno nello stesso letto, io prenderò uno e l'altro lo lascerò, se starete nei campi, uno lo prenderò e l'altro lo lascerò, e i discepoli gli domandano, uno dei discepoli gli domanda, ma dove Signore, dove lo porterai, dove lo lascerai? E lui risponde, dove sarà il corpo, là saranno anche le aquile. Volevo sapere cosa significava questo. Certo, allora la ringrazio, ringrazio anche lei, Anna Grazia da Roma, per questa sua domanda. Il brano a cui lei fa riferimento è uno dei testi paralleli all'Apocalisse marziana. Sì. In questo testo parallelo al testo dell'Apocalisse marciana vengono utilizzate altre immagini che enfatizzano il discorso che Gesù già tiene nel Vangelo di Marco. Ora, la sottolineatura che viene fatta dai testi paralleli è proprio quello di sottolineare la simultaneità di questi, cioè gli eventi che caratterizzano il ritorno del figlio dell'uomo sono eventi improvvisi, dove ciò che diventa dominante è la relazione tra l'uomo con Dio, non la relazione tra l'uomo e il suo simile, per cui la persona che viene presa e l'altra lasciata sono segno appunto della priorità del rapporto con Dio e di come gli eventi ultimi alla fine diventano la chiave del discernimento di ciò che succede all'interno della storia, cioè la fine dei tempi dimostra chi nella storia è stato un segno luminoso, da chi nella storia è stato un segno oscuro. Tanto vero che alla domanda che i discepoli fanno, ma quando Signore, dove Signore? Gesù risponde in modo enigmatico, dice dove ci saranno, e qua dipende un pochino dalle traduzioni, la traduzione che lei ha dato è un pochino diversa dalla traduzione letterale del testo, la traduzione letterale del testo dice dove ci saranno i cadaveri, là si appoggeranno gli avvoltoi, cioè le persone che hanno portato dentro di sé una logica di morte attireranno su di sé gli animali della morte, gli avvoltoi sono il simbolo del male, sono il simbolo del demonio, no? Che alla fine irrompe nella storia e prende chi gli appartiene. Gli altri invece che vengono portati via dal Signore sono coloro che nella storia si sono impegnati per essere un segno luminoso, per portare un messaggio di bene, per portare un messaggio di onestà. E allora questi, quando arrivano gli ultimi tempi, vengono, come dire, raccolti, è l'immagine che utilizza Marco, e vengono raccolti dal figlio dell'uomo, questo figlio dell'uomo che raccoglie dai quattro angoli della terra e del cielo, cioè raccoglie quelli che sono vivi e quelli che sono già passati in altra vita e li raduna tutti in sé per formare la sua nuova comunità, la comunità della nuova creazione. Gli altri invece che hanno operato esclusivamente per il male vengono in qualche modo raccolti dal principe del male, dal principe delle tenebre. Ecco. Quindi è lo stesso linguaggio che viene decodificato, che viene presentato alla comunità con altre immagini. Ora, su questo aspetto mi permetta, Anna Grazia, di aggiungere una piccola cosa. Di fronte a queste immagini volutamente forti, perché fanno parte di uno stile narrativo ben preciso, che è quello apocalittico che gioca sulle immagini forti, Uno potrebbe dire, no? Ma come si fa a distinguere una persona dall'altra, cioè una persona che fa il bene da una persona che fa il male? Quali grandi cose una persona deve fare? Ecco, Gesù non si aspetta dai suoi grandi cose nel senso che noi abbiamo in testa. Una persona diventa segno luminoso nella misura in cui permette al Cristo che lo abita di esprimersi. Ricordiamo, i dodici non sono persone che hanno fatto grandi cose durante la loro vita di discepoli, però si sono sforzati giorno dopo giorno di seguire il loro maestro, di capire il suo insegnamento, di cercare di metterlo in atto, sbagliando e riuscendo, facendo un passo dopo l'altro. Cioè, il destino delle anime sante non è quello degli eroi, la via indicata da Gesù non è la via degli eroi che può essere veicolata dai media, dalla televisione, non è una cosa del genere, ma l'eroismo cristiano è tutt'altra cosa. L'eroismo cristiano è il discepolato quotidiano, e il discepolato quotidiano è una cosa piccola. Tanto vero che il regno che Gesù apre ai suoi non è un regno per gli eroi, ma è un regno per i piccoli. E allora l'elemento di discernimento è lì. Chi è una presenza di luce nella storia che viene radunato? Chi è l'eletto che viene radunato dal Figlio dell'uomo? Sono i piccoli, coloro che ogni giorno, nella semplicità del quotidiano, cercano di seguire il loro maestro. Chi sono invece coloro che vengono lasciati e diventano, come dire, punto di riferimento degli avvoltoi? Sono coloro che volutamente operano il male e cercano di portare l'oscurità nella storia, perdendo di vista quella che è la dignità umana e il rispetto dell'altro in quanto tale. Grazie ancora Anna Grazia per questa sua domanda, che anche questa ha contribuito a cogliere un'ulteriore sfumatura del nostro testo. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, con Anna da Brescia. Mi dica, signora Anna. In parte ha già risposto, diciamo così, al quesito che le volevo porre, perché era un po' questo. Perché è così difficile essere un segno comunque di pace e portare questo messaggio anche luminoso all'interno della storia? Cioè, nel senso che anche se una persona spesso si impegna, ci sono magari vive in un contesto che addirittura travisa il suo modo di essere, il suo desiderio di essere, quello che appunto ho appena detto. E tra l'altro, appunto, ha citato bene lei prima, che spesso sotto religione finiscono tante cose e tante persone si allineano a questo modo di pensare. E non è così semplice. Cioè, è vero che Gesù Cristo ha scelto i piccoli e tutto quello che diceva lei. Però ecco, io sento spesso questa fatica e questa difficoltà di essere compresi per come uno vuole essere, e spesso la presunzione di chi fa parte appunto di sette più o meno religiose di sostituirsi nel giudizio a Dio in pratica. Certo. È un po' difficile da spiegare, però ecco, c'è questa difficoltà, questa fatica, e spesso uno dice, vabbè, ma se Dio vuole comunque che, non lo so, la persona finisca schiacciata, faccio un po' fatica, ecco, perché ho sempre creduto nello spirito di Gesù Cristo risorto. Va bene il Calvario, ma poi ci deve essere questo altro messaggio. Certo, senza dubbio, signor Anna. La ringrazio per la sua domanda, no? Che ci permette di riprendere proprio l'immagine che Gesù utilizza verso la fine del discorso, no? Prima dicevo che non è un caso che Gesù, quando utilizza l'immagine del padrone di casa che ritorna, fa riferimento a quelle quattro veglie, no? La sera, la mezzanotte, il canto del gallo o al mattino. Se noi andiamo a vedere questi quattro momenti della narrazione di Marco, praticamente sono tutti momenti che ritroviamo nel capitolo successivo, e quindi capiamo bene come questo discorso apocalittico fa da porta d'ingresso alla narrazione del mistero pasquale che inizia subito dopo. Notiamo che questi quattro momenti sono tutti momenti di difficoltà e di fatica, come lei evidenzia nella sua domanda. Il momento della sera, ad esempio, è il momento della fatica tra i dodici, perché Gesù annuncia in occasione dell'ultima cena che uno di loro lo tradisce. E allora c'è quel dibattito all'interno, ma di chi Gesù sta parlando? E uno di loro esce dalla comunità in quel momento, Giuda, e nessuno si accorge di quello che sta succedendo, quindi è un momento grande di fatica, non solo per Gesù ma anche per i dodici, perché non si capisce bene dove si sta andando a finire. Tra l'altro Gesù nel contesto dell'ultima cena annuncia la fine della sua vita e tutti si oppongono, quindi questa è una prima fatica, e Gesù dice bene di anche di fronte a questa fatica vegliate. Poi c'è il secondo momento, quello della preghiera, del sostare in preghiera nell'ambito del Getsemani, anche lì in quel momento che è il momento della vicinanza a Gesù, in quel momento in cui Gesù poi verrà arrestato tutti fuggono, e allora in quel contesto c'è un'altra fatica che emerge, che è la fatica della perseveranza nella preghiera e della vicinanza a Gesù, tutti e due dicono elementi di vicinanza a Gesù, la preghiera non è altro che essere vicini a Gesù, di pregare insieme a Lui, di permettere a Lui di pregare in noi, anche questo è un elemento di fatica, non è facile per il credente non solo vivere in comunità, quello che era successo prima, ma vivere anche in sintonia con Dio, perché a volte non si capiscono i suoi disegni. Poi terzo elemento di fatica è il rinnegamento vero e proprio, è quando la fatica si traduce in una sorta di peccato, in fondo il rinnegamento di Pietro altro non è che un peccato verso se stesso, verso la comunità, verso il suo maestro, perché lui rinnega tutti e tre. Ora, anche in questo momento, che sembra essere il momento della lontananza da Dio, Gesù dice ai suoi: non stancatevi, siete caduti, ma vegliate, continuate a vegliare, alzatevi in piedi. E poi c'è l'ultimo momento, il momento del mattino, quando Gesù viene condannato a morte e tutti i discepoli sono fuggiti, ognuno è tornato a nascondersi, non sappiamo dove, probabilmente nella sala alta di Gerusalemme. In questo momento, che è il momento dello smarrimento più pieno, perché è il momento della delusione massima, anche lì Gesù invita i suoi a non perdere la fiducia. Vede, queste quattro esperienze, signora Anna, sono le quattro esperienze che noi viviamo quotidianamente nella nostra vita cristiana, sia nei confronti di coloro che non vivono come noi, sia nella lotta personale per vivere un'autenticità, perché ognuno di noi cerca, se c'è un minimo di buona volontà, l'autenticità nei confronti della propria fede, no? È solo che a volte è difficile vivere questa autenticità, a volte si vuole mollare la presa, altre volte si cade, altre volte si è delusi e non si vuole più mettere energie per perseverare sulla via che ci è indicata dal nostro Signore. Ecco, è un po' come se ogni volta la voce del Signore torna dentro di noi e ci dice: non smarrirti, vigila, veglia, riprendi forza, perché comunque tu sei chiamato ad essere un segno luminoso. Mi permetto anche in questo caso di aggiungere una piccola cosa. Se noi pensiamo di essere segni luminosi con i nostri sforzi, la nostra vita cristiana diventerà uno sforzo titanico immane che ci porta a sera distrutti, perché uno si sforza di dare il meglio di sé, non ci riesce mai e alla fine arriva alla fine della giornata spossato. Se invece noi cerchiamo di essere segni luminosi lasciando che il Signore che abita in noi sia questo segno luminoso, lo sforzo immane non c'è più, perché nostro compito non è quello di sostituirci a Gesù. Gesù è quello che deve abitare nelle nostre parole, nei nostri gesti, nella nostra vita, è Lui che deve essere il segno luminoso attraverso di noi, non noi. Noi lo siamo se Lui ci abita. Allora, nel momento in cui noi facciamo spazio a Lui nella nostra vita, e allora la vita cristiana diventa un'altra cosa. Non è è uno sforzo titanico quotidiano alla fine dei quali siamo spossati, ma è un lasciar spazio a colui che già abita i nostri cuori in virtù del battesimo, al nostro Maestro. Grazie quindi anche Anna di Brescia per questa sua domanda sulle fatiche della testimonianza cristiana. Pronto? Pronto, con chi parlo? Mi chiamo Raffaella e sono di Salerno. Dica Raffaella. Io le volevo chiedere come si interpreta il concetto che viene espresso dal nostro credo, io credo nella resurrezione della carne, e se si può dare un'interpretazione in funzione di questa parte del Vangelo che parla di un ritorno di Gesù e quindi di una seconda resurrezione, come alcuni vogliono far credere così facilmente. Cioè io mi chiedo se ci sia stata una cattiva interpretazione delle parole di Gesù e quindi la diffusione di un credo sbagliato, o si possa invece interpretare in funzione della parabola del fico, in funzione della parabola del vegliate, se si possa interpretare appunto questo ritorno di Gesù alla fine dei tempi. Non so se ho espresso bene la mia domanda. E poi volevo ringraziarla per tutto quello che ha detto, che ha suscitato in noi, anche perché ogni qualvolta leggo o sento leggere i Vangeli mi innamoro sempre di più della parola di Gesù e quindi sento proprio questo bisogno di esprimermi, di dire la mia, insomma. Grazie per radio. Grazie signora Raffaella per questo suo intervento. Ringraziamo piuttosto insieme Radio Maria per questo servizio che continuamente fa alla parola di Dio, no? Chiamando noi che in qualche modo la spezziamo e voi che intervenite con le vostre domande per arricchire la riflessione. Allora, lei tocca un tema che riguarda soprattutto l'ambito della teologia, l'ambito teologico. Stiamo vivendo un anno di grazia particolarmente significativo, che è l'anno della fede, che si è aperto con il sinodo, no, della nuova evangelizzazione e oramai gli editori di ogni tipo, compresa la casa editrice di cui ho la responsabilità, cioè le Edizioni San Paolo, pubblicano diversi materiali per accompagnare un po' la riflessione sul credo e diversi di questi strumenti permettono anche alle comunità cristiane diffuse di avere un commento al credo significativo, quindi vi invito lei, invito voi ascoltatori ad andare in una libreria almeno in quest'anno e prendere un commento al credo, perché la domanda di Raffaella tocca un tema chiave ed è importante sapere rispondere, no, su questi tratti significativi della nostra professione di fede. Cosa si intende per risurrezione della carne? Ecco, noi dobbiamo stare attenti su questo termine, cioè non dobbiamo limitarci al dato fisico, cioè quando noi nel credo diciamo credo nella risurrezione della carne, non significa solo che la carne che noi abbiamo, cioè le nostre ossa, la nostra pelle, i nostri muscoli, verranno a conformare il nostro fisico nel giorno della risurrezione, ma significa molto di più. Cioè il concetto di carne che è associato alla mentalità biblica, e qua mi rifaccio soprattutto alla mentalità giudeo-cristiana, più che a quella greca, ha a che fare con la persona nella sua interezza, cioè il corpo ebraico e greco, il soma biblico, non è solo la fisicità del nostro essere, ma è l'essere in tutta la sua identità. E allora la nostra identità, l'identità di ciascuno di noi, è costituita da tanti elementi. È costituita ovviamente dalla fisicità, noi abbiamo un corpo che ci fa essere o uomini o donne, e questo dice l'identità di quello che noi siamo. Abbiamo però accanto alla corporeità tutta una serie di relazioni che influiscono su quello che noi siamo, la relazione con nostro padre, con nostra madre, con quelli che costituiscono la nostra terra di origine, la cultura in cui nasciamo, incidono sulla nostra personalità, incidono positivamente e negativamente, contribuendo a darci delle caratteristiche luminose e altre volte a delle piccole ombre del nostro carattere, e poi tutte le esperienze di vita che noi facciamo, ogni esperienza incide su di noi. Se noi, non so, dalla nostra terra di origine siamo dovuti emigrare e andare all'estero, se uno dalla Bolivia viene in Italia, è ovvio che quell'esperienza incide sulla sua identità. Se uno dall'Africa viene in Italia, quell'esperienza, che a volte può essere anche traumatica, incide sulla sua identità. Chi finisce nelle mani di farabutti che poi li sfruttano, un'esperienza del genere incide sull'identità della persona. Ora, tutto questo viene a configurare quello che noi siamo, in positivo e in negativo. Quello che noi siamo, comprese le nostre relazioni, è ciò che risorge. Cioè, il Signore non butta via nulla di quello che noi costruiamo nella nostra vita di tutti i giorni. Quando noi risorgeremo, ritroveremo la nostra realtà, le nostre relazioni, la nostra identità rinnovate in pienezza. Penso che qui il messaggio cristiano sia un messaggio di grande luminosità, perché praticamente tutte quelle che sono le nostre relazioni, le relazioni più belle della nostra vita, non vanno perdute. Pensate alla relazione sponsale, no? Tra un uomo e una donna che si uniscono in matrimonio, che si sposano, no? Nella vita futura la loro relazione viene trasfigurata, ma resta la loro relazione, non è che siamo tutti messi, tutti sono uguali e hanno tutti lo stesso ruolo, no, le nostre relazioni restano, la relazione con i nostri genitori resta, tutto però viene trasfigurato, assunto in una nuova luce. L'immagine più significativa di tutto questo è quella che caratterizza soprattutto i Vangeli della risurrezione. Se voi notate, Gesù, quando risorge, i suoi fanno fatica a riconoscerlo, e quindi questo ci dice che il corpo è trasfigurato. Ma la relazione tra Gesù e i suoi resta, al punto tale che gli stessi gesti che Gesù ha compiuto quando era il maestro in vita prima della passione, morte e risurrezione, sono gli stessi gesti che permettono ai suoi di riconoscerlo. L'attenzione particolare che aveva per Pietro prima, ce l'ha per Pietro dopo. Cioè, questi elementi della relazionalità vengono trasfigurati, quindi risurrezione della carne, non è solo la risurrezione fisica, che pur fa parte di questo mistero, ma è qualcosa di molto, molto più grande. Tra l'altro, riflettere in occasione dell'anno della fede sul credo ci fa capire come quella formula che noi tutti i giorni recitiamo in chiesa dopo l'omelia, tutte le domeniche recitiamo in chiesa dopo l'omelia, cioè la formula del credo, e che recitiamo a volte stancamente, senza nemmeno badare alle parole che diciamo, è un condensato dell'identità cristiana favoloso, che ha avuto tutto un percorso nella storia per svilupparsi, è stato motivo di dibattiti molto duri e forti, ha causato persino in questi dibattiti guerre e morti. Però ecco, tutto questo ha contribuito a illuminare sempre meglio i misteri della nostra fede, e ci sono persone che per questo hanno dato la vita. Quindi è giusto che noi oggi ci poniamo queste parole, queste domande. Porci delle questioni su questi argomenti significa tornare alle radici della nostra fede, e quindi benvengano. Grazie signora Raffaella quindi per questa sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera Don Giacomo. Buonasera, sono Maria. Sì. Maria è il telefono dalla Sardegna. Beh. Allora, quello che a lei ha esposto adesso, ma non è questa la domanda che le voglio fare, ho ascoltato tutto quello che lei ha esposto adesso. Tutto ciò che lei ha detto è valido anche per le ossa arida, delle ossa della valle delle ossa arida di Ezechiele? Sì, ma allora... No, ma aspetti, questa non è la domanda però, dopo mi spiegherai prego, che è quella. Allora, continui e poi rispondo, non ce la faccio. Allora, innanzitutto devo ringraziarla per la sua bellissima e importante esposizione e soprattutto mi è piaciuta moltissimo la differenza che ha spiegato fra la prima parte, quella apocalittica, e la seconda, quella degli eletti che pregano, e la venuta del figlio dell'uomo. Grazie molte Don Giacomo. Allora, poi devo dire, c'è stata un'altra telefonata rispetto a ciò che adesso devo dire, e ciò ha suscitato in me un'altra domanda. Allora, riguardo alla fine del mondo. Allora, se non vado errata, anche Paolo penso abbia parlato di questo, cioè che la fine del mondo sarebbe giunta nella sua epoca. È vero o non lo è? E se è vero, perché? Poi, come lei, anche la Chiesa parla di troni e dominazioni rispetto agli angeli. Cosa sono questi troni e dominazioni? Esistono come quelli della terra? Poi, questi troni e dominazioni esistono anche fra gli spiriti impuri, gli spiriti delle tenebre, i demoni, che sono angeli ribelli, insomma, sono stati angeli ribelli. Grazie Don Giacomo, l'ascolto per radio. Buonasera. Grazie signora Maria dalla Sardegna, piena di entusiasmo, la nostra signora non si è accontentata di una domanda, ma ne ha fatta ben quattro, quindi cerchiamo di rispondere nel più breve tempo possibile a questi quesiti. Il primo, le ossa aride di Ezechiele. Dobbiamo sempre contestualizzare i testi quando li leggiamo, ovviamente Ezechiele si pone in un contesto che è un pochino diverso dal discorso apocalittico di Marco. Ezechiele vive, è il profeta che Dio manda nella pagina più cupa, no, della storia di Israele, che è la pagina dell'esilio a Babilonia. Quindi in questo momento dove tutto sembra distrutto e quindi dove il popolo vive l'esperienza della morte, ecco le ossa aride, il profeta è chiamato ad essere il segno di quel soffio dello spirito che quelle ossa aride le fa rimettere in piedi, le ristabilisce nella loro fecondità e dignità originaria, al punto tale che dall'esilio giungerà il movimento della ricostruzione di Gerusalemme. Sapete che il giudaismo non nasce tanto dai pochi giudei che sono rimasti in Israele, ma il giudaismo vero e proprio è quello che torna nella Terra Santa dopo l'esperienza dell'esilio, dopo la purificazione di questa pagina oscura della storia. Quindi l'immagine delle ossa aride poi è stata riletta come icona anticipatrice del discorso della risurrezione, ma solo poi, al tempo di Ezechiele, era un'immagine simbolica per dire piuttosto la rinascita che comunque il popolo avrebbe vissuto anche nella situazione dell'esilio. Vi dico di più, al tempo di Ezechiele la fede nella risurrezione non era diffusa. La fede nella risurrezione si comincia a stabilire nella storia del popolo ebraico molto più avanti. All'inizio erano solo dei piccoli gruppi che credevano nella risurrezione. La maggioranza riteneva che dopo la vita l'uomo andasse a finire nel regno delle ombre, il cui mistero restava avvolto nel disegno di Dio, cioè nessuno si permetteva di indagare oltre questo mistero. E invece poi, andando avanti nella storia, l'epoca dei Maccabei, l'epoca degli ultimi profeti, in cui ha cominciato a svilupparsi la fede nella risurrezione, fino a raggiungere ovviamente la sua massima espressione con il messaggio cristiano. Paolo ha parlato anche lui di una fine del mondo imminente, addirittura lui ne ha parlato nella sua epoca. È vero o non è vero? Certo che è vero. scrivendo ai fedeli di Tessalonica, quindi nelle prime lettere che Paolo scrive, nella prima lettera ai Tessalonicesi, lui addirittura ritiene che quando tornerà il Cristo, lui stesso sarà ancora vivo, mentre altre persone moriranno. Cioè Paolo è convinto che probabilmente lui non vivrà l'esperienza della morte, perché il Cristo tornerà prima ancora che lui muoia. Poi però, andando avanti, si rende conto che il ritorno di Cristo non è così imminente e quindi imposta il suo insegnamento alle prime comunità cristiane in modo diverso, sottolineando non tanto l'invito ad aspettare il Signore, ma l'invito a impegnarsi nella storia, diventando segni luminosi nella storia. Questo, a mio avviso, è uno dei lati più belli di Paolo. Perché? Perché Paolo non nasce già fatto, ma Paolo si costruisce passo dopo passo, cioè Paolo coglie il significato della fede cristiana giorno dopo giorno, e quindi notiamo nelle sue lettere che lui cambia posizione su alcuni temi. Il tema, ad esempio, del rapporto con la legge, nelle lettere di Paolo, se noi le mettiamo in fila cronologicamente, notiamo che nelle prime lettere la sua posizione è diversa da quelle, da quelle scritte dopo, ed è ancora diversa da quelle scritte alla fine della sua vita, cioè Paolo matura nella fede, e così anche nella sua visione del Cristo. La sua visione del ritorno di Cristo, che emerge nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è la prima lettera che lui scrive di tutte, tradisce un modo di vedere le cose che ancora non è maturo, però è normale che sia così. Ognuno di noi vede le cose di Dio in modo diverso in base alle fasi dell'età. Quando io ero ragazzo o adolescente, non avevo certamente la prospettiva sulle cose di Dio che ho avuto quando avevo 30 anni, e nemmeno quella che ho ora, che ne ho 41. Cioè, ognuno di noi, in base alle fasi della propria vita, coglie diversi aspetti, la fede è un approfondimento continuo, e questo l'hanno vissuto i grandi testimoni della fede come i santi, e anche noi. E arriviamo alle ultime due domande, cioè quelle che si rifanno alla visione del mondo di Dio e del mondo dell'uomo nel primo secolo. Ovviamente nel primo secolo non c'era la concezione del mondo che noi abbiamo oggi, cioè la terra stessa non era concepita come noi la vediamo oggi, non si aveva l'idea prima di tutto del globo terrestre, si pensava che la terra finisse in Spagna, cioè c'era un modo di rappresentare il mondo terreno diverso da quello di oggi, perché alcune cognizioni non c'erano. E lo stesso valeva per il mondo di Dio. Si impostava la visione di Dio come la visione della terra, per cui se nella terra c'era un imperatore con la sua cerchia, sotto l'imperatore e sotto la sua cerchia ce n'erano altri, poi si arrivava giù nella scala sociale fino ai poveri, agli ultimi, agli schiavi, così si pensava che anche il mondo di Dio fosse organizzato in questo modo, per cui accanto alla divinità c'era tutta una serie di esseri che costituivano coloro che insieme a Dio stabilivano le decisioni sul mondo, e poi altri esseri intermedi fino ad arrivare all'uomo. Ora, ovviamente l'elemento degli angeli, degli arcangeli di Dio, che sono quelli più vicini al trono di Dio, poi accanto a questi i troni, le dominazioni, le potestà, che probabilmente erano degli esseri che in alcune realtà venivano personificati, in altri no, erano tutte delle immagini che attingevano al mondo culturale del primo secolo. Ed era una rappresentazione del mondo che ovviamente è lontana dalla nostra, ma che era influenzata da quella di allora, cioè ognuno cerca di decodificare il mistero di Dio con gli strumenti che ha a disposizione, e questo ci fa capire anche quanto possano essere relative le nostre categorie di Dio oggi, cioè noi percepiamo il mondo di Dio con le categorie razionali che hanno dominato l'Occidente, però non è detto che siano le migliori. Quindi ringrazio anche Maria della Sardegna per la sua domanda. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, quindi permettetemi di ringraziare quelli che hanno partecipato e arricchito la nostra trasmissione con le loro domande: Maria Grazia di Varese, Anna Grazia da Roma, Anna da Brescia, Raffaella di Salerno, e Maria dalla Sardegna. A tutti voi un grande grazie, l'augurio di essere ciascuno nella propria realtà un segno luminoso. E ci diamo appuntamento tra un mese, sempre sulle pagine di questo Vangelo, il Vangelo di Marco, che ci sta accompagnando, regalandoci tanti spunti significativi per la nostra vita di ogni giorno. Una benedizione a tutti voi. Grazie ancora di tutto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.